E buonasera a tutti e benvenuti ai Colori dell'Anima che, come sapete, va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, questa sera sono in compagnia di tante persone che adesso vi presenterò, però appunto prima di presentarvi e prima di entrare anche nell'argomento della trasmissione, volevo ricordarvi che i Colori dell'Anima, quindi come dicevo prima, va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 e che è una trasmissione che va in diretta stasera con me Rosanna, ma appunto con altre persone. Parleremo di servizio volontario europeo. E non ti preoccupare, Annalisa, che adesso ti do tutto quello che ti serve. E comincio col salutare. Intanto Anna Maria, ciao Anna Maria. Puoi ripetere? Buonasera a tutti, ciao Buonasera a Rosanna. te, perché sì, avevo il microfono spento con Annalisa. Buonasera. Ciao, buonasera a te, come state? Tutto bene. Bene? Alla Siete fine di una lunga contente giornata. di essere venute in radio, di essere tornate in radio dopo tanto tempo? Sempre, siamo Sempre? sempre Beh, contenti. bene. Ormai Come ti siamo un vedi? trio collaudato. Va bene. Allora, oggi 11 di giugno e come dicevo appunto parleremo di servizio volontario europeo e parleremo appunto fino alle ore 22, naturalmente con un po' di musica, ma intanto cominciamo subito con un brano musicale e noi ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete con noi su Radio Alma 101.9. Allora, questo era Andrea Bocelli, come avrete sicuramente riconosciuto, con la canzone Sogno, ma prima di andare avanti vorrei salutare l'altra ospite di stasera, Barbara. Ciao a tutti. Allora, Barbara è una nuova leva dei Colori dell'Anima che ha cominciato così ad accompagnare le trasmissioni dei Colori dell'Anima e di solito fa coppia con Cristina, vero? Sì, e incominciamo la prossima settimana per la prima volta insieme, tutte e due da sole. E ci vuoi anticipare anche l'argomento di cui parlerete o non lo sai ancora? Probabilmente parleremo del Cammino di Santiago, però ancora da decidere, però probabilmente è quel tema. Va bene, quindi allora sapete già cosa ci potrebbe essere la settimana prossima, quindi lunedì 18 giugno alle ore 21, sicuramente sarete in compagnia di Barbara e Cristina e poi l'argomento si vedrà. Allora, per quanto riguarda il servizio volontario europeo, che come vi dicevo sarà l'argomento di stasera, per chi insomma ne ha sentito parlare, sappiamo che è una iniziativa della Commissione europea ed è una iniziativa che riguarda un'esperienza di formazione a tutti i giovani che abbiano un'età compresa fra 18 e 30 anni, durante un periodo compreso che va da 2 a 12 mesi. I partecipanti, quindi i volontari, hanno l'occasione di conoscere meglio un altro paese, un'altra cultura, un'altra lingua, partecipando alla realizzazione di un progetto utile alla collettività in specifiche iniziative a carattere però locale e contestualmente possono migliorare il proprio bagaglio di esperienze personali e professionali. Sì, Rossi, infatti i progetti, non so se lo sai, ma possono essere nei più diversi settori, si va dall'essere da fare teatro per disoccupati in Norvegia, all'occuparsi di educazione ambientale in Francia, ad organizzare attività per bambini in Estonia e così via. Tra l'altro, è importante dire che i volontari non sostengono spese perché la Commissione, con questo programma copre il 90% praticamente delle spese, quindi dal viaggio, il vitto, l'alloggio, i trasporti locali. E quindi ogni cosa di cui il volontario potesse aver bisogno, anche la formazione linguistica viene in qualche modo sostenuta dal progetto. E tra l'altro i volontari ricevono anche un pocket money mensile che però dipende, quindi una piccola somma, che però dipende dal paese dove si va, dove va a fare l'esperienza di volontariato, a seconda del costo della vita. La guida al programma, se si vuole dare un occhio alla guida al programma, si vedono proprio le differenti cifre. Allora, vorrei dire questo, che la maggior parte dei progetti SVE sono in paesi dell'Unione Europea. Quindi ma esistono anche dei progetti fuori dal continente, per esempio in Sudafrica, in Cambogia ed in Brasile, anche se partecipare a questi progetti è un pochino più complicato. Le vacancies spesso sono più difficili da trovare. Va sottolineato che il servizio volontario europeo è soprattutto un servizio di apprendimento. Attraverso le esperienze di approfondimento non formale, i giovani volontari migliorano e acquisiscono competenze a vantaggio del loro sviluppo personale, formativo e professionale, nonché della loro integrazione sociale. Sì, infatti gli elementi dell'apprendimento di cui il volontario fa esperienza consistono soprattutto nella definizione comune di risultati, dei processi e dei metodi che si attendono dalla formazione, ma il guadagno maggiore che i volontari ricavano dall'esperienza è la certificazione delle competenze e quindi nella partecipazione anche di esperienze di formazione a cui i volontari sono tenuti a partecipare. Quindi è un'esperienza, di volontariato, ma che ha una forte componente formativa per questi giovani. Sì, infatti loro possono partecipare anche a dei corsi di lingua che le organizzazioni di supporto possono fornire ai volontari. Ok, allora daremo comunque ancora dei dettagli, perché effettivamente è un'esperienza molto interessante, soprattutto per chi per esempio ha terminato gli studi universitari e vuole mettersi a cercare un lavoro serio, tra virgolette, magari può essere una pausa di riflessione. Sai, Ros, può essere sempre un po' come nello spirito, come dicevamo l'altra volta, del capire chi si è cosa piace fare, no? I gusti, cosa si vuole fare nella vita da grandi. Certo. Allora, torneremo fra pochissimi minuti, un altro brano musicale, questa volta di Irene Grandi. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 con la trasmissione I colori dell'anima. Fra pochissimo. Allora, questa era Irene Grandi su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:15 di questo 11 giugno 2012 e stiamo parlando ai colori dell'anima di servizio volontario europeo, vero Anna Maria? Esattamente, quindi torniamo a parlarne. Il servizio volontario europeo è uno dei 5 programmi che fanno parte di un programma più vasto chiamato Gioventù in Azione. Si tratta di un'azione che contribuisce in modo significativo all'acquisizione di competenze e rappresenta uno strumento chiave per offrire ai giovani una opportunità di apprendimento non formale ed informale con una dimensione europea. Gli obiettivi definiti nella base giuridica del programma, Gioventù in Azione, sono quelli di promuovere la cittadinanza attiva nazionale ed europea dei giovani, sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, rafforzare la comprensione reciproca tra i giovani di diversi paesi. E come già anticipato, il servizio volontario europeo viene realizzato tramite le attività organizzate nel quadro della partnership tra organizzazioni costituite legalmente, che inviano oppure che ospitano i volontari. Un'attività di servizio volontario europeo consiste nella preparazione, nell'attività volontaria vera e propria, ma anche nel seguito, il cosiddetto follow-up. Il volontario svolge la sua attività in una nazione, ovviamente questo essendo il servizio volontario europeo, la nazione deve essere diversa da quella propria, anzi diversa da quella di residenza. L'attività non è retribuita, anche se viene dato un piccolo contributo, non ha scopi di lucro e si svolge a tempo pieno durante un dato periodo che va fino a 12 mesi. E tutta l'attività ovviamente deve andare a profitto della comunità. Sì, infatti lo SVE può essere svolto in tantissimi settori, quindi arte, cultura, comunicazione, protezione civile, ambiente, cooperazione allo sviluppo, eccetera. Ma soprattutto bisogna notare che sono esclusi situazioni o interventi che comportano un qualsiasi rischio per il volontario. Per esempio aiuti umanitari o aiuti immediatamente successivi a catastrofi. E infatti i volontari non sono, e questo è importante sottolinearlo, non sono dei lavoratori, non sono persone salariate, per cui lo SVE non è un lavoro retribuito e non è neanche un'esperienza, non è neanche un tirocinio, è eminentemente un'attività di volontariato, quindi un servizio. E inoltre per accedere al servizio volontario europeo c'è bisogno di un'organizzazione di invio, questo è molto importante, un'organizzazione di accoglienza, un'organizzazione ospitante e almeno un volontario, anche se i progetti possono avere dei gruppi di volontari con un massimo di 100 volontari per ogni singola attività. Quindi l'attività può essere svolta individualmente o in gruppo. I volontari possono svolgere l'attività nella stessa organizzazione ospitante, nello stesso paese, in diverse organizzazioni ospitanti nello stesso paese o in diverse organizzazioni ospitanti in diversi paesi. Allora, Annalisa, ci vuoi presentare anche un altro ospite, vero? Questa sera c'è un losco figuro che si aggira in radio. Una voce maschile, perché ci sono tutte donne. Sì, e abbiamo pensato che avere un uomo tra di noi potesse controbilanciare la visuale, diciamo. Si chiama Alessandro ed è una persona che io conosco dall'Italia, da Milano, anche se le sue origini sono più sicule. Meridionali. Ti presenti, ciao Ale? Ciao a tutti, è bello essere qui insieme a voi. Alessandro ci sta immortalando in questo nostro momento di gloria qui alla radio. Esatto. Allora, il cameraman e poi Facebook di Annalisa, di cui adesso non dirò l'indirizzo, sarà pieno di foto, di video, giusto? Per la privacy, per certo. La privacy, infatti, appunto. Per la privacy che si rispetta su Facebook. Certo. Relativa. Va bene. Allora, Alessandro, tu sei qui solo per fare le riprese o vuoi parlare anche tu del servizio volontario europeo? Fino a stasera sapevi che cos'era almeno? L'avevi sì, mai sì, sentito sì, nominare? Conosci qualcuno che ha fatto questo servizio? Non personalmente, però so di che cosa si tratta perché abbiamo diverse antenne sul territorio in Lombardia, diverse istituzioni che comunque lo diffondono sia nelle università che nelle scuole, quindi so che comunque è un servizio utile e che ogni ragazzo dovrebbe cercare di sfruttare per la dimensione europea che gli permette di accedere a questo universo europeo per l'esperienza appunto che ti può dare di vita da ogni punto di vista, sicuramente una cosa bellissima. Va bene, vedo che anche se non eri preparato, insomma, sapevi. No, il ragazzo sa parlare. Sa parlare. Va bene, allora io propongo un altro brano musicale, ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Questa volta il brano è un brano di Antonello Venditti che si chiama Ricordati di me, una canzone diciamo di qualche anno fa, di quando eravamo un po' più giovani, almeno quelli anziani che sono qui stasera. Ci ritroviamo fra pochi minuti su Radio Alma 101.9. Allora, ora parliamo dei partner. Un partner del progetto SVE che invia o ospita un volontario deve essere un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, costituita legalmente in un paese partecipante al programma o in un paese partner, un'attività locale, regionale o nazionale, di un paese partecipante al programma o di un paese partner, oppure un'organizzazione governativa internazionale istituita in un paese partecipante al programma o in un paese partner. Allora, stiamo parlando di servizio volontario europeo, quindi e l'associazione di invio, in questo caso del volontario, è responsabile della preparazione del giovane prima della partenza stessa. Al suo ritorno l'aiuterà a valorizzare al meglio l'esperienza acquisita nella ricerca di un lavoro o di un ulteriore segmento formativo. L'associazione di accoglienza dovrà far sì che il servizio volontario sia un'autentica esperienza di apprendimento e fornirà al giovane tutti gli appoggi necessari nel corso di tale servizio. Va precisato che il servizio volontario europeo svolge un ruolo sostanzialmente educativo per il volontario. Questi non deve fungere da manodopera a buon mercato, né estromettere personale già occupato e non deve assumere un'attività per le quali la sua presenza resterebbe indispensabile. Io vorrei dare qualche informazione concreta ai ragazzi che fossero in ascolto per sapere come si fa ad accedere al servizio volontario. Allora, intanto è importante sapere che ci sono delle scadenze e sono anche molto precise, quindi bisogna stare un po' all'occhio. Le prossime scadenze previste sono il 1 settembre per progetti che iniziano tra il 1 dicembre e il 30 aprile e il 1 novembre per progetti che iniziano tra il 1 febbraio e il 31 luglio. Ovviamente ci si può rivolgere a tutte le organizzazioni, a tutti i centri, possiamo nominare sicuramente la rete degli Eurodesk che trovate sul territorio nazionale, ce n'è anche uno a Milano, ma anche agli centri Europe Direct che vi possono comunque supportare nella consultazione del database dei progetti e delle organizzazioni di invio e di accoglienza. Allora, e riprendiamo quindi la trasmissione in diretta dei Colori dell'Anima di questo lunedì 11 di giugno. Siamo appunto in compagnia di Anna Maria, Annalisa, Barbara, che sta imparando un po' di regia questa sera, di Rosanna ovviamente, e stiamo parlando di servizio volontario europeo. Salutiamo ancora Monica che ci ascoltava via internet dalla Lombardia, da vicino Milano. E possiamo anche ricordare però che chi vuole ci può telefonare al numero. Sì, possono, chi volesse può telefonare allo 02 345 2656. Benissimo. E continuiamo con il nostro servizio volontario europeo. Bene, allora torniamo allo SVE, che deve invece contribuire ad avviare progetti intesi a dare una risposta adeguata al bisogno sociale e fornire un valore aggiunto ai vari progetti grazie alla sua motivazione e alla sua visione nuova della realtà. Alcune attività di inserimento sono aperte ai giovani disabili dai 16 ai 30 anni, a condizione che siano assicurati preparazione, accompagnamento e follow-up qualificati e personalizzati. Ovviamente le organizzazioni non possono richiedere ai volontari, come dire, una specifica appartenenza ad un gruppo etnico, religioso, o non possono favorire particolari gruppi o richiedere che i volontari abbiano un certo orientamento sessuale piuttosto che un altro, oppure opinioni politiche. Devono quindi comunque garantire uguali opportunità a tutti. Non possono neanche richiedere, non essendo un lavoro, non possono richiedere le organizzazioni, intendo, il possesso di particolari qualifiche, anche se in casi particolarmente giustificati e in funzione di specifiche mansioni è possibile che sia richiesto che i volontari impiegati possano avere alcune competenze specifiche. Allora, per quanto riguarda invece la durata, l'abbiamo già detto, non deve superare 24 mesi, però per 24 mesi intendiamo la preparazione e quindi anche la valutazione e il follow up. Però il progetto non può superare i 24 mesi? No, il progetto non può durare 12 mesi. Esatto, sì. Ecco, quindi, ma stavo dicendo che il tutto non può superare 24 mesi, e cioè la preparazione, la valutazione e il follow up. L'attività del servizio volontario europeo, quindi svolta all'estero, deve avere una durata minima di 2 mesi, anche questo l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, e una durata quindi globale di massimo 12 mesi, dove però appunto quando parliamo di 12 mesi intendiamo escluse la preparazione e la valutazione. E di norma un volontario partecipa ad una sola attività del servizio volontario europeo, ma chiaramente ci sono delle eccezioni. Sì. In determinati casi, debitamente giustificati, è possibile la partecipazione a 2 o a più attività SVE successive. La durata totale delle attività non deve tuttavia mai superare i 12 mesi, come abbiamo già detto, per un singolo volontario. Nel caso di attività mirate al coinvolgimento di giovani volontari svantaggiati e di attività SVE di gruppo, se debitamente giustificata, è ammessa anche la durata minima di 2 settimane. Allora, benissimo, quindi vi daremo ancora delle altre informazioni sul servizio volontario europeo. Propongo ancora un brano musicale, questa volta di Anna Oxa, e ci troviamo quindi fra pochissimi minuti qui a Radio Alma. Tutti i brividi del mondo, era Anna Oxa su Radio Alma nella trasmissione Colori dell'Anima, e ci stiamo quasi avvicinando alla fine, però Annalisa, non abbiamo detto il colore della trasmissione di oggi del servizio volontario europeo, che è? Il viola. Il viola. Dal violontariato, ma senza onta. Qui c'è sempre lo zampino del nostro Alessandro, che nel frattempo ci ha lasciato. Va bene, allora il viola, sì, visto che è un colore che comunque va di moda, diciamo, va? Diciamo, io lo penso più un color lilla. Ecco, lilla, sì, è vero, è più bello del viola. Allora, il progetto, quindi stiamo parlando di progetto chiaramente dei volontari, prevede la partecipazione dei volontari al ciclo di formazione del servizio volontario europeo. Consiste nella formazione preliminare alla partenza, nella formazione al momento dell'arrivo, quindi dell'ente ospitante, e poi in una riunione intermedia e quindi nella valutazione finale. I volontari hanno il diritto dovere di partecipare a questi corsi di formazione forniti da o a nome delle agenzie nazionali o dalle organizzazioni di servizio volontario europeo di invio, ospitanti e coordinatrici, in linea con gli orientamenti e standard minimi che sono quindi previsti dal programma. A questo proposito vorrei citare il sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, che è www.agenziagiovani.it, dove tutti possono andare a vedere e consultare documenti e informazioni sul programma, perché questa è l'agenzia incaricata della gestione del programma Gioventù in Azione, quindi anche del Servizio Volontario Europeo. Bene. Allora, il progetto dovrebbe garantire il carattere di servizio di apprendimento dello SVE, ovvero fornire ai giovani pari opportunità di apprendimento non formali e informali per consentire loro di acquisire nuove abilità e nuove competenze per il proprio sviluppo personale, pedagogico e professionale. A tal fine è necessario descrivere i risultati di apprendimento attesi ed i relativi processi di apprendimento. Si deve puntare ad un'efficace combinazione tra le mansioni da svolgere e i profili dei volontari. Infatti i volontari hanno l'opportunità, o dovrebbero avere in qualche modo l'opportunità, di scambiare e condividere l'esperienza che stanno svolgendo nello SVE, soprattutto grazie alle organizzazioni di invio. Essi devono ricevere da parte di queste organizzazioni dell'assistenza di cui hanno bisogno e che li hanno inviati, e anche la reintegrazione nella comunità di provenienza per ulteriore esperienza di istruzione, formazione e occupazione. Nell'ambito dell'organizzazione ospitante, infatti, un tutor, che viene, diciamo, nel linguaggio europeo si chiama mentore, si incarica del sostegno personale e facilita l'integrazione nella comunità locale. Se sorgesse qualche problema, il tutor è la persona alla quale il volontario si rivolge per essere aiutato, per ricevere supporto. Benissimo, allora diciamo, diremo ancora qualche informazione verso la fine della trasmissione, però adesso vi propongo ancora un piccolo brano musicale. Ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti con I colori dell'anima e con il servizio volontario europeo, che è l'argomento di questa serata. A fra poco. Eh sì, oggi sono io, anzi siamo noi qui a I colori dell'anima, e stiamo appunto avviandoci alla fine della trasmissione di oggi sul servizio volontario europeo. Una cosa importante che può interessare tutti i giovani è che chi fa il volontario può chiedere alla fine dell'esperienza, o comunque a metà, può richiedere il rilascio di uno Youth Pass, che è una sorta di certificato che convalida e descrive le competenze o comunque l'esperienza di apprendimento non formale che si è svolta durante il periodo di volontariato. È una specie di, un po' come il curriculum, il CV europeo, il formato europeo del curriculum, quindi una sorta di certificazione con standard europei delle competenze acquisite, in maniera tale che il giovane, che non so, possa andare a lavorare, tramite questo certificato è, diciamo, aiutato nel suo percorso futuro formativo e professionale, perché un eventuale datore di lavoro potrebbe vedere attraverso lo Youth Pass quali competenze il volontario ha acquisito durante l'esperienza di volontariato. E tra l'altro è proprio attraverso lo Youth Pass che la Commissione certifica l'attività di volontariato come un'esperienza di istruzione, che però non vuol dire scolastica, nel senso che si favorisce l'apprendimento non formale o informale, che è, diciamo, extrascolastico. Inoltre il famoso Youth Pass è firmato dai volontari, ma anche dalle organizzazioni che lo seguono durante il periodo di volontariato, quindi è ufficiale a tutti gli effetti. Bene, e in ciascun paese la struttura nazionale stimola la creazione di progetti di accoglienza, lanciando un invito a manifestare interesse. Tra l'altro, appunto, Annalisa prima ci ha detto le prossime scadenze previste, la prossima proprio per il 1° di settembre. Le strutture nazionali esprimono un primo parere sui progetti di accoglienza e li trasmettono alla Commissione europea. Quest'ultima dichiara idonei i progetti rispondenti agli obiettivi e alle condizioni dell'azione pilota e ne invia l'elenco alle strutture nazionali, le quali poi a loro volta lo diffondono tra i partner potenziali per stimolare la nascita di progetti di invio. E stasera avremmo voluto avere anche così qualche rappresentante di questi ragazzi che stanno facendo il servizio volontario europeo, però non siamo riusciti a contattare le persone, perché attraverso l'ufficio qui del Belgio abbiamo saputo che ci sono due ragazzi che si trovano a Liegi, quindi sono ospitati in questo momento, però abbiamo anche pensato che forse non era facile per loro venire qui in radio e parlare della loro esperienza a quest'ora, infatti. Allora, comunque, Anna Maria, sì, tu hai visto qualche esempio? Io ho dato un'occhiata e ho trovato alcuni progetti che sono già stati approvati, e uno di questi è un progetto approvato per la Polonia. Si tratta di attività educative, attività culturali e progetti internazionali di gioventù, definiti in questa maniera. Ora, il progetto dovrebbe svolgersi dal 6 ottobre 2012 al 6 luglio 2013. Si svolge a Poznan e in cooperazione con il centro culturale Krag e alcune scuole nel quartiere Lazarz. Mi scuso per la pronuncia, eventualmente non fosse corretta. Dunque, ci saranno due volontari internazionali che affiancheranno gli operatori dell'associazione CIM Orizzonti nell'organizzazione dei laboratori educativi per i bambini e i ragazzi, quindi promozione del volontariato, promozione delle varie opportunità europee, laboratori creativi, eccetera. Organizzeranno le serate interculturali nel centro culturale Krag e saranno coinvolti nell'organizzazione del Festival del Quartiere. Parallelamente, i volontari lavoreranno su vari progetti internazionali di gioventù, scambi, seminari, corsi di formazione, eccetera. Poi abbiamo un altro progetto che è stato approvato per l'Ungheria. In questo caso abbiamo dei bambini e ragazzi Rom con attività internazionali di gioventù. E questo è già in corso, quindi da maggio a ottobre 2012. Questo progetto si svolge in una zona rurale svantaggiata, nel villaggio di Holoko, riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, a 100 km da Budapest. Il volontario italiano lavora nel team internazionale, in cui ci sono due persone per l'Armenia, due per la Francia e una per il Portogallo, per il centro di accoglienza dei gruppi e progetti internazionali, Creative Space si chiama. Parallelamente il suo compito è quello di sviluppare e implementare vari progetti e laboratori per i giovani e i bambini della zona. Molti di loro sono dei Rom, e nei centri dopo scuola dispersi nel territorio. E infine abbiamo un altro scambio in Romania, che tratta soprattutto della disoccupazione e della multiculturalità. A Baia del Mare, quindi in Romania, dal 16 al 23 luglio 2012 ci saranno 4 partecipanti dai 18 ai 25 anni. Il progetto avrà la durata di 8 giorni e si svolgerà a Baia del Mare, come l'abbiamo già detto, che è una tranquilla cittadina del nord-ovest della Romania, la conosciamo tutti, vicina al confine con Ucraina e Ungheria. Coinvolgerà 28 partecipanti dei 7 paesi diversi: Bulgaria, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Spagna e Turchia. L'obiettivo del progetto è aiutare i giovani a sviluppare una consapevolezza adeguata al mondo del lavoro, incoraggiando lo spirito imprenditoriale, nella prospettiva del mettersi in gioco attivamente. Si cercherà inoltre di promuovere la coesione culturale tra giovani di nazionalità diverse, imparando ad accogliere le diversità e a creare uno spirito di cittadinanza europea. Dunque, la deadline per l'application, scusate il termine, è del 15 giugno. Allora, Rosanna, solo le ultime battute finali. consiglio a chi volesse avere più informazioni di andare sul sito www.eurodesk.it, che è, diciamo, il punto italiano di riferimento per Gioventù in Azione e il programma SVE, e inoltre di consultare il database SVE con tutti i progetti e le organizzazioni accreditate sul sito della commissione http://ec.europa.eu/youth, e poi oppure semplicemente scrivere database SVE su Google e si trova immediatamente. Sì, appunto, poi c'è il sito, diciamo, www.serviziovolontarioeuropeo.it, quindi servizio volontario europeo tutta una parola, è molto semplice, penso, da cercare anche con i vari motori di ricerca. Allora, siamo arrivati veramente alla fine, io comincerei con il ringraziare Barbara. Grazie a voi, ho imparato tanto qui da te in regia. Però si impara facendo, quindi la prossima volta devi mettere di più le mani in pasta. Ringrazio ovviamente Anna Maria. Grazie a voi. Annalisa. Grazie. Spero di avervi di nuovo qui a luglio per la prossima puntata nella quale verremo insieme, non sappiamo ancora di cosa parleremo, ma insomma adesso ci rifletteremo. La nostra creatività... Certo, sarà sicuramente stimolata. Infatti. Soprattutto dall'estate belga. Dall'estate belga, infatti. Va bene, grazie ancora e buona serata a tutti. Ciao. Buona Ciao, serata. Buona serata.